No, assolutamente non è preludio di incidenti futuri alle prossime votazioni. Su 400 volte che abbiamo votato ci può essere anche una defaillance, qualcosa che, voglio dire, rispetto all'argomento, al tema, ci sia, ecco, un minimo di distonia all'interno stessa della maggioranza, ma questo è fisiologico e naturale. Lamberto Dini si sta atteggiando rispetto a delle situazioni, come dicevo prima, dei temi sui quali lui insomma, fa forza affinché ci sia anche la sua idea che venga rispettata rispetto a quelle che sono le richieste poi in generale che vengono da tutte le parti politiche. Quindi anche questo è fisiologico, l'importante è il voto finale.